Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Laura è bella, di quella bellezza sfuggente che hanno le ragazze a quell'età, che sono già quasi donne ma si intravede ancora la bambina. Ci baciamo per la prima volta una sera di fine giugno, la sera in cui sulle spiagge di Brighton arrivano le paperelle. Sono Manuel, ho 31 anni, vivo a Milano con mia moglie, le mie tre splendide figlie e faccio l'imprenditore. C'è un destino negli oggetti. Sì, lo so che di oggetti ne abbiamo parlato per una stagione intera e basta, però torniamo un attimo lì. Gli oggetti che ci circondano hanno segnato una via o una vita o hanno una loro biografia indipendente da noi? Perché se è così, se fosse così, in teoria trovare un oggetto o comprare un oggetto, o meglio ancora, ritrovare un oggetto, cioè un oggetto che noi stessi abbiamo perso o che in qualche modo ci ha appartenuto, dovrebbe essere un segno, cioè dovremmo leggerlo come un segno, no? Dovrebbe dirci qualcosa della nostra vita, perché se ritrovi una cosa che tu stesso hai smarrito o se la trovi che l'ha smarrita qualcun altro, in teoria dovrebbe raccontarci qualcosa di noi o del nostro futuro. Non so se è così, provo a leggervi però questo messaggio e magari vi si spiega meglio. Laura: durante una vacanza in Trentino, la mia mamma, per ingannare il tempo, decise di crearmi un pupazzo, lavorando la lana ai ferri e riempiendo di ovatta la sagoma ottenuta. Nelle sue intenzioni doveva essere un candido coniglietto, in concreto si rivela qualcosa di molto simile a un diavolo. Ma tant'è. In onore del luogo in cui ci trovavamo, decisi di chiamarlo Montino. Ricordo di averlo portato con me all'asilo una mattina, ma poi, non trovandolo più, mi ero convinta di averlo perso. A distanza di anni, sbirciando per caso nel cassetto della cattedra della mia maestra delle elementari, e già non so come si sbirci per caso nel cassetto della cattedra della maestra elementari, l'ho ritrovato. Non ho idea di come ci sia finito, di quante mani abbia visto e di quanta strada abbia fatto per capitare proprio lì. Ma da quel momento Montino è passeggero fisso della mia borsa in tutte le occasioni più importanti, esame di stato compreso. 349-238-6666 oppure voi siete qui @radio24.it. Esiste però anche un profilo Facebook per chi non l'avesse mai visitato o per chi fosse davanti a un computer in questo momento con niente da fare e quindi probabilmente si trova su Facebook. È Matteo Caccia, io sono qui. Oggi si parla di tutti quegli oggetti che avete ritrovato. Che sia stato un caso oppure no, che crediate nel destino oppure no, si parla di quegli oggetti lì che sono entrati o rientrati, meglio, nella vostra vita. Ne parliamo perché la storia di Manuel è una storia molto particolare, che tra l'altro tira fuori una storia molto molto interessante, che è una storia che ha un fascino incredibile, che è super poetica e che a breve vi racconto. Non me la ricordavo manco io bene, sono andato a ricercarla, che è la storia delle paperelle, qualcuno forse la saprà, delle paperelle che sono naufragate tempo fa nell'Oceano Pacifico, ma tant'è, ve la racconto tra poco. Francesca: io ho ritrovato dei fogli su cui avevo scritto un racconto quando avevo circa 10 anni. Mi sono resa conto che già da allora avevo voglia di scrivere. A volte vorrei essere ancora piccola per non pensare a cosa diranno gli altri e scrivere come mi piace, liberamente. Francesca, fallo come esercizio. Prova a sentirti piccola e a scrivere uguale, fregandoti. A parte che non sono così convinto che i bambini non siano interessati a quello che pensano gli altri. Secondo me è un'idea che abbiamo noi adulti di quando eravamo bambini, ma siamo molto più simili ad allora di quanto immaginiamo. E poi nella seconda parte c'è un esperimento che stiamo tentando e secondo me è riuscito. Bonini? Anche secondo te è un esperimento che stiamo tentando da un po' di tempo a questa parte. È una sorta di Twitter story, l'abbiamo chiamata, cioè attraverso il profilo Facebook buonanotte, mi viene sempre, è ormai proprio un riflesso condizionato, attraverso il profilo Facebook dai mi fai ripartire la base, Paolino, magari riparto pure io. Attraverso il profilo Twitter di questo programma, che è VSQR24, cioè voi siete qui Radio 24, su Twitter lo trovate facilmente, cioè esiste un hashtag ormai consolidato nel tempo che è voi siete qui, perché quanta fantasia, non ci frega nessuno. Proviamo a fare questo esperimento. In 140 caratteri raccogliamo un vostro pezzo di storia, poi lo mettiamo insieme e la narrativizziamo, cioè ci facciamo una storia che è una sorta di storia di tutti quanti quelli che hanno partecipato. In questo caso abbiamo scelto 3 tweet, che sono il tweet di Pietro, di Luca e di Emanuele, mi pare che fossero, perché qua Emanuele non me l'ho segnato, e li abbiamo fatti diventare una storia. Il Twitter di oggi ha a che fare chiaramente con l'oggetto che avete perso. Potete ancora scrivere, Margherita Ina sta seguendo come una folle, come se lo lei sa fare il profilo Twitter del programma. Voi siete qui Radio 24, in 144 140 caratteri l'oggetto che avete ritrovato, che sia un oggetto importante oppure no, qualunque esso sia. Questa storia è la storia di una paperella, questa storia è la storia di Manuel. Mi chiamo Manuel e ho 31 anni. Sono sposato con Laura e abbiamo 3 figlie. La nostra storia è iniziata presto, poi si è interrotta e poi è ripartita. Quella storia è andata così. Io e Laura abbiamo 15 anni, è l'estate del 1995. Ci incontriamo in Inghilterra durante una vacanza studio, una di quelle in cui si impara poco dell'inglese e molto di come si fa a crescere. È il nostro primo viaggio, il primo viaggio da soli, intendo, in un posto lontano. Forse è il primo aereo che prendiamo, sicuramente il mio primo. L'Inghilterra è umida, ma piena di cose da fare, cose che a Piacenza, la città in cui vivo, non posso nemmeno immaginare. Mi piace il posto, mi piace tutto, ma mi piace molto di più lei, Laura. Quell'estate in Inghilterra per me è stato tutto nuovo, il tempo non era il tempo che d'estate c'era qui e le cose erano tutte cose nuove perché si facevano per la prima volta in libertà, senza genitori, con lo spirito di trasgressione. Ci incontriamo sui banchi del corso di inglese. All'epoca io ero uno smargiasso, davo l'impressione di essere molto sicuro di me. Mai una cosa fuori posto, mai un cedimento, mai una debolezza. È una cosa che mi porto dietro ancora oggi, solo che ora è tutto più calcolato. Laura è bella, di quella bellezza sfuggente che hanno le ragazze a quell'età, che sono già quasi donne ma si intravede ancora la bambina. La corteggio in tutti i modi possibili, ma lei mi snobba con il distacco infinito che hanno le donne quando non vogliono saperne. Eppure ci baciamo per la prima volta una sera di fine giugno, la sera in cui sulle spiagge di Brighton arrivano le paperelle. Le paperelle sono dei giocattoli di gomma, quelle che tutti noi abbiamo avuto nella nostra vasca da bagno da bambini. Piccole e gialle con il becco rosso, accovacciate con le alette nascoste in modo da galleggiare senza ribaltarsi. Sono tantissime e arrivano a frotte sulla spiaggia. Hanno viaggiato per 15 anni, navigando dall'Oceano Pacifico, dove il container che le conteneva è finito in mare, e sono passate per l'Alaska. E ora il vento e le correnti le hanno portate sulle coste britanniche. Le persone accorrono sulla spiaggia e io mi tuffo, anche se è sera, anche se è freddo, e ho il doppio cheeseburger sullo stomaco. Ne prendo una e la regalo a Laura. È gialla con il becco rosso, è di gomma, è una di quelle paperelle da tenere nella vasca da bagno, anche se è scolorita dal lungo viaggio. Laura la prende in mano, la stringe e poi dice di rimetterla in mare, perché è fatta per viaggiare, non per rimanere in una vasca da bagno. Il giorno dopo lei parte e non la vedo più. Io ero molto concentrato su una in particolare, non perché fosse diversa dalle altre, ma perché era quella più vicina. E poi l'ho raccolta e sì, quando l'ho ributtata dentro, in realtà non ero tanto concentrato nel lasciare qualcosa che avevo trovato, ma più che altro pensavo che si era fatto la cosa sbagliata nel momento sbagliato. Passano 10 anni. Sono tornato in Italia, sono cresciuto e lavoro nel turismo. Viaggio e faccio viaggiare le persone. Sono a Marrakech per lavoro, insieme a Paolo, il mio socio. Vogliamo iniziare una nuova attività e siamo lì per incontrare un po' di persone. È da un pezzo che non penso più a Laura. Non penso più a come stavo con lei e come ero io durante quel mio primo viaggio. Non ci penso finché sento una voce che mi attira, che dice qualcosa, suona come una cantilena. È un ragazzino ai bordi della strada che vende carabattole ai turisti. Mi giro e sul banchetto c'è una paperella. È gialla, segnata dal sole. Il bambino mi dice che quella non è una paperella normale, no, è una di quelle cadute in mare anni prima da una nave cargo durante una tempesta. Io la prendo in mano e la guardo. Non è la stessa paperella di 10 anni fa, non può essere lei. Forse non è nemmeno una di quelle naufragate, o forse invece sì. Mi torna in mente Laura e quel giorno a Brighton. La compro e appena torno in Italia la cerco. La trovo, la convinco ad incontrarci e porto con me quella paperella. Sono passati un po' di anni, abbiamo 3 figlie, abbiamo una paperella in casa perché sappiamo che ci ha portato fortuna. Anyway, I can try anything, it's the same circle leading to nowhere. And I'm tired now, anyway, I've lost my face, my dignity, my look, everything is gone. And I'm tired now, don't be scared, I found. find a good job and I go to work. Don't be scared. I found a good job and I go to work. Every day on my old bicycle you love. Voi la sapevate la storia delle paperelle? Io no, cioè, o meglio, sì, però non me la ricordavo bene. La storia è questa. Nel gennaio del 1992, una nave cargo, durante una tempesta nel mezzo dell'Oceano Pacifico, perde un container, pieno di giocattoli di gomma costruiti in Cina e destinati ad essere venduti negli Stati Uniti. Tra questi ci sono 30.000 paperelle di gomma, per l'esattezza sono 28.800. Provate ad immaginarvele. Con quel loro becco giallo brillante, quella consistenza rigida e gommosa e quella specie di sorriso quasi inquietante sulla faccia. Provate ad immaginarle grosse quanto un pugno, mentre vengono sballottate e rovesciate da onde giganti e scure che le fanno vorticare come in una lavatrice. E poi, il giorno dopo, a tempesta finita, cercate di vederle in gruppo, migliaia di paperelle che galleggiano beatamente in mezzo all'oceano. E così per giorni, giorni, trasportate dalle correnti. Quando questa notizia si è sparsa è diventata subito una storia, raccontata da giornali, dalle televisioni. Immaginarsi quei minuscoli oggetti da vasca da bagno, che se ne stavano in alto mare senza essere state progettate per quello, che eppure però continuavano a rimanere a galla e a navigare grazie al vento, alle correnti, sembrava l'incipit di un film. Sono diventate un fenomeno di costume, quelle paperelle. E anche una forma d'arte, al punto che un artista olandese costruì una papera gigante e la posizionò sulle coste olandesi, come una specie di grande mamma papera in attesa del ritorno delle figlie disperse. Ma quelle papere non sono state solo semplici giocattoli in navigazione. Sono diventate motivo di studio per diversi scienziati, che, monitorando i loro spostamenti, hanno studiato correnti marine e maree. C'era un oceanografo in particolare, si chiama Curtis Ebbesmeyer. Lui ha spiegato che circa 2/3 di quelle paperelle, partendo dall'Oceano Pacifico settentrionale, cioè tra la Corea e l'Alaska più o meno, grazie alle correnti marine sono scese verso sud. Hanno raggiunto il Sud America e poi l'Indonesia e l'Australia. Altre invece sono scivolate verso lo stretto di Bering, tra l'Alaska e la Russia, a nord. Hanno affrontato il gelo, gli iceberg, sono state intrappolate nei ghiacciai per anni e poi, al momento del disgelo, hanno ripreso il loro viaggio nei mari. Al momento in cui sono cadute in acqua, in quel giorno di gennaio, stavano navigando verso un porto della costa occidentale degli Stati Uniti. Ma da quel momento in avanti, la loro rotta è cambiata. Semplicemente perché da quel momento in avanti, una rotta non ce l'avevano più. Eppure non si sono fatte prendere dallo sconforto. Sono rimaste a galla e hanno continuato a navigare, anzi, a farsi navigare, dal mare e dal vento. E anche se io non le ho viste, ovviamente, sono sicuro che hanno mantenuto quel sorriso sul becco. E questo credo sia il motivo per cui milioni di persone si sono appassionate alla loro storia. E addirittura qualcuno come Manuel, grazie a una di loro, ha ritrovato una donna che aveva incontrato anni prima. E il motivo sta proprio lì, sta in quella galleggiante spensieratezza che non le ha mai fatte desistere. Anche in mezzo alla tempesta, anche in una vasca da bagno gigante, piena di onde e di pesci pronti a inghiottirle, anche se una strada non ce l'avevano ancora, sono andate avanti. Hanno preso vie diverse, ma alla fine una loro strada l'hanno trovata e in qualche modo sono arrivate a casa. Forse questo è quello che pensa ognuno di noi quando sente di nuove paperelle che ancora oggi arrivano sulle coste argentine, hawaiane o inglesi. Pensa che alla fine una strada la si trova. La si trova sempre. Was this all a mistake? Was this all a lie? Just a massive undertaking to pacify. Was this given to me? Did I take it away? Did I ever even choose to live this way? Was this all a mistake? Alex mi scrive: ripenso allo scudo e alla spada di legno che mio padre mi fece quando ero piccolo e ho ritrovato dopo 17 anni durante il trasloco. Sono stato una giornata intera a saltare sul divano con il cane e la fidanzata che volevano chiamare la Neuro, urlando Dio salvi la regina. E ancora, mio padre perse la catenina d'oro di sua mamma in una spiaggia sul Ticino a Pavia. La ritrovò 3 anni dopo sedendosi sulla stessa spiaggia e con le mani infilate nella sabbia. Era esattamente in quel punto sotto sotto la sabbia. A me pare incredibile, scrive Savino da Pavia. Savino da Pavia, anche a me, Matteo da Milano, pare incredibile. Abbastanza incredibile sembra la storia di Manuel, però è bella e quindi ci piace. Pronto, Manuel? Ciao, Matteo. Ciao, come stai? Bene, tu? Bene, bene. Dove ti trovi in questo momento? In ufficio? Lavori? In ufficio, chiaro. Perché fai l'imprenditore, dicevi. Mi piace sempre quando uno mi dice faccio l'imprenditore, perché potrebbe fare qualsiasi roba, dai tondini di ferro. Si fanno ancora i tondini di ferro? Beh, te cosa ne sai? Non lo so, penso di sì. Perché spero. Tu invece cosa fai? Terziario? Vendi niente praticamente? No, vendo viaggi. No, vendo ok. Produci niente in sostanza? Ah, sì. Però quindi, insomma, scusami una cosa, però poi torniamo al racconto. La questione della paperella che ti ha portato fortuna, perché tu ci hai fatto nascere qualcosa da quella roba, mi sembra di capire, giusto? Sì, perché, al di là delle tre figlie che mi ha dato la ragazza... Che comunque non mi sembra poco, avendo... Scusa, tu hai 31 anni e hai tre figlie? Sì. Tua moglie quanti ne ha? Sì. Ne ha 32. Quindi, insomma, siete fiduciosi nei confronti del mondo e... E del sesso maschile, direi. C'hai quattro donne in casa, Manuel. Esatto, sì. Quattro donne in casa è forse quasi una regola, però. Va bene, senti, invece oltre alle tre figlie tu mi sembra che ci hai creato un lavoro di fatto, giusto? Una società di viaggi, cosa fate? Sì, perché la seconda volta che ho trovato, la prima volta l'ho trovata con Laura, sì. Con Paperella. La seconda volta che ero a Marrakesh ero... E che è quella che hai, giusto? Quella che hai tenuto in teoria. Sì, giusto? Sì, sì. Che non è evidentemente quella che ho visto. Beh, la prima volta. Tutti quanti noi immaginiamo, però ci piace immaginare che sia così. Facciamo finta che sia così, dai. Facciamo finta che è quella là, ok. La seconda volta ero con Paolo, il mio socio, mm-hmm. quello che poi successivamente è diventato il mio socio, mm-hmm. ed abbiamo sentito questo ragazzino sul bordo della strada che vendeva giocattoli, mm-hmm. che diceva yalla yalla, yalla yalla, per chiamare le persone, mm-hmm. e a quel punto io mi sono fatto prendere da questa papera che mi ha risvegliato i ricordi e ho raccontato tutto a Paolo, che ovviamente non è che fosse tanto interessato del mio flirt. Beh, da dove immagino. E quindi, però insomma... mi ha detto di certo yalla yalla è il nome ideale per la società. Ma che vogliamo quindi, fare. Quindi scusa, vabbè, a parte la soletta che ti sei sparato immediatamente, giusto, live, perché abbiamo capito che di fatto avete creato una società di viaggi mentre in quell'occasione, mi sembra di capire, giusto? Okay. Era un progetto che già c'era. Senti, invece, dimmi un'altra cosa. Parliamo di vacanze. La gente va ancora in vacanza? Ah, per fortuna sì. Dimmi in... insomma, tu ne capirai perché sarai un esperto. Dov'è che va la gente in vacanza? Devi dirmi un posto in cui la gente va in vacanza. Mar Rosso. Ma secco, così? Secco. Sì. Cioè, parliamo di italiani, giusto? Sì, parliamo di italiani. Sì. Il secondo posto in cui la gente va in vacanza? Mar Rosso. Il secondo posto dove la gente va in vacanza in Kenya. Ok, e il terzo? Maldive. E il terzo va a Santo Domingo. Ok, perfetto, quindi questa più o meno questa... Senti, e mi sai dire anche più o meno chi sono le persone, cioè l'età, quanti anni hanno, che cosa fanno nella vita? Ma in vacanza ci vanno un po' tutti quello che sì, si però... possono permettere. Beh, quello me lo auguro anch'io, però per diciamo... Dai 25 ai 55 anni sono persone che fanno... qualsiasi tipo di lavoro, che hanno famiglia, tantissime cose. Quindi scusami, sta roba della crisi si sente o non si sente? La gente ha smesso di andare in vacanza oppure no? No. No? La gente okay. rinuncia magari un pochino a una stella dell'albergo o qualche giorno in più. Però continua ad andarci. La restringe, magari prenota all'ultimo, ma non se la fa, non rinuncia. Manuel, ti ringrazio anche perché devo mandare la borsa. Ti auguro in bocca al lupo, saluti a Laura e alle tre bambine. Grazie Matteo. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Mi puoi dire il titolo della canzone? Non ho internet, te lo dico dopo. Adesso non abbiamo tempo. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Una, due, tre. Sono veramente tre le figlie di Manuel che si vedono anche dalla foto che ci ha mandato, in cui sono lui, la sua compagna, moglie, compagna Laura e le tre bambine. Sono sedute su un divano, immagino, lui ha la barba, lei no, e neanche le tre bambine. E sono proprio in scala, la più grande, la mediana e la più piccola. E incredibilmente sono in un'unica foto tutti e cinque sorridenti. Perché non è facile fare una foto in cui tutti e cinque, pure quella piccola che ci avrà, boh, non ho idea di quanti mesi abbiano, però avrà 4-5 mesi. E sembra effettivamente la foto di un imprenditore, felice, contento, il suo, diciamo, il suo business l'ha fatto, eccole qua, 1, 2 e 3, ragazzi, 31 anni, 3 figlie. 349-238-6666, cose ritrovate. Stefania, un fazzoletto da naso stirato, piegato in quattro a fiorellini, ho ritrovato. Era di mia nonna Guerrina, fazzoletto che lei teneva in mezzo al seno, a portata di mano per asciugarsi il sudore della fronte, e lo conservo ancora. Le nonne hanno questa roba che tengono i fazzoletti ovunque. Mia nonna si infila il fazzoletto nella manica, no, non nel seno, esatto, nella manica del nel polso, nel polsino, che tra l'altro dopo che te lo sei soffiato, no? Nonna, adesso c'hai i tuoi 90... Quanti ne hai? Sei del 21, quindi hai 91 anni, basta, ce l'avrai una tasca dove infilarti sto fazzoletto. Marina, un vecchio plettro consunto in una scatola di legno, il pezzettino di plastica che è fatta ponte dalla mia infanzia a quello che sono oggi. E poi è arrivato un altro messaggio, niente, Giampaolo non molla, Giampaolo non molla. Spero che come le paperelle troverai la strada per Zocca. Zocca c'è! Chiude sempre l'SMS con Zocca c'è. Credo che non verrò mai a Zocca, Giampaolo, se continui non verrò mai. Massimo invece mi scrive che a causa delle paperelle ci sono anche un sacco di balene con le coliche, questo non possiamo saperlo. Ma torniamo a noi, perché questo esperimento che stiamo cercando e tentando di fare con tutte le nostre forze comincia a dare i primi frutti. È molto semplice la questione. C'è un profilo Twitter di questo programma, no? Per chi non lo sapesse, Twitter è un social media che ti permette in 140 caratteri di scrivere una cosa che qualcuno leggerà. Chi leggerà? Chi ti segue, banalmente. È come ricevere un SMS e scambiarseli, solo che lo vedono tutti. Attraverso il nostro profilo, visto che quello che facciamo è raccontare storie, lo facciamo da quando siamo arrivati qui a Radio 24 e continuiamo a farlo, vi chiediamo di raccontarci una storia che ha a che fare con il tema del giorno. Quello di oggi era ritrovare delle cose, e quindi in 140 caratteri scrivere qualcosa, una piccola storia di qualcosa che avete ritrovato. E quindi vi leggo i 3 tweet che abbiamo scelto per questa storia. Pietro: ho ritrovato i miei quaderni delle elementari, che delusione, non scrivevo così bene come credevo, ho provato a buttarli ma mia madre li ha salvati. 1, 2, ritrovata la mia raccolta di schede telefoniche, era in uno scatolone in soffitta, quanti ricordi. 3, ho ritrovato l'ultima VHS mai acquistata, stasera volevo rivedere il film ma il videoregistratore l'ha mangiata. Questi sono i 3 tweet che abbiamo scelto. Quello che facciamo è prenderli, metterli insieme, costruirci sopra una storia, e la storia che ne esce è questa qui. Ho ritrovato poche cose nella mia vita e tutte hanno in qualche maniera modificato l'idea che avevo di me. È strano ritrovare oggetti che hai collezionato o che avevi coccolato e scoprire che eri una persona diversa. Che non sei sempre stato come sei adesso, che oggi non è il tuo anno zero, perché il tuo anno zero probabilmente è la mattina, è ogni mattina in cui ti svegli. La soffitta di solito è il luogo in cui cerchi le cose o le ritrovi per caso. Ero là sopra per sistemare un'antenna parabolica e l'occhio mi è finito su una scatola azzurra dell'Adidas, di quelle con le 3 strisce bianche. Non sapevo cosa ci avrei trovato, perché non ricordavo cosa ci avessi messo. Era una delle poche collezioni fatte nella mia vita. Era una collezione di schede telefoniche, di quelle che si usavano nelle cabine. Ne ho contate sommariamente 2500, ma potrebbero essere di più, molte di più. Ecco, oltre ai ricordi che sono usciti da quelle schede, è stato il sentimento di inutilità a spiazzarmi. Non servivano a niente. E non mi erano nemmeno servite quando le avevo raccolte e catalogate. Diverso è stato invece quando ho ritrovato i miei quaderni di bambino, quelli in cui scrivevo i miei primi temi, quelli che mi ricordo la maestra elogiava davanti a tutta la classe. Li ho riletti. Beh, i casi erano 2. O la maestra era ubriaca quando li leggeva, oppure ho sempre avuto un'idea eccessivamente alta di me e delle mie qualità di scrittura. In quello stesso armadio, insieme ai quaderni, trovai anche una videocassetta, un VHS, credo l'ultima che io abbia mai acquistato. Era un film che si chiamava L'impostore, con Tim Roth. Ero pronto a godermelo insieme ad una bella birra ghiacciata quando, inserito nel videoregistratore vecchio di 20 anni, la videocassetta, ho sentito l'inconfondibile rumore di nastro che si avvolge e viene ingoiato dagli ingranaggi. Ho messo videocassetta, quaderni delle elementari e schede telefoniche in una scatola e li ho rimessi in soffitta. È meglio che gli oggetti rimangano dove sono, nello spazio e nel tempo, e che a ritrovarli sia qualcun altro. I got more, I got no need. I got nothing I could be. I got things that you should see. Waiting, nothing's going down. Can't seem to get it off the ground. Seeing if I come around. Mi separo, butto da qualche parte la fede. Dopo 2 anni faccio trasloco. Mio nonno dopo 1 anno mi dice che l'aveva ritrovata e che l'aveva conservata in un cassetto. Me la dà triste. Io l'ho ributtata. Se uno perde una cosa, un motivo ci deve essere. Lo stesso messaggio, ma dall'altra parte, ho ritrovato la fede dopo molti anni, è come se fossi nato una seconda volta. E poi ancora, dai che devo andare via, il titolo della canzone di 20 minuti fa circa, la canzone si chiama Monochrome e l'autore è Ian Tiersen. Se avete internet, cosa che non ha questo ascoltatore, trovate i titoli sulla pagina di Radio 24, sulla pagina di Voi Siete Qui, sul sito Radio 24, dove trovate anche i podcast della trasmissione, altrimenti iTunes, abbonamento gratuito. E poi l'ultimo messaggio di oggi è: durante il trasloco ho ritrovato i calcoli alla coricisti che mi hanno tolto 5 anni fa. Fortunato da Alessandria. Grazie a Paolino Corleone, grazie a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. La storia di oggi era la storia di Manuel e parlava di oggetti ritrovati. Quella di lunedì è la storia di Clara e parla di caccia al tesoro. Fu a questo punto che mio marito mi propose di fare un viaggio organizzato, ma non insieme, come al solito. Altrimenti chi avrebbe badato al nipote che dal divorzio dei genitori passava quasi tutta la giornata con noi? No, non insieme, con un'amica. All'inizio rifiutai, ma poi mi decisi e mi preparai a partire per la Patagonia e la Terra del Fuoco.